Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piattarini in redazione, Filippo Oreggi in regia. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno. Coach, oggi rapito dalla nostalgia è venuto a trovarmi Flavio Suardi che è di là in regia. Ah, Flavio Suardi, no, ho avuto via Flavio Suardi. Beh, sai che l'abbiamo venduto all'Armani, l'abbiamo venduto, fa l'ala piccola adesso. Adesso farà la piccola all'Armani. No, è venuto a trovarci e mi ha portato un nuovo amico. Sai, tutti dicono che Milano è la regina del mercato, no? Si legge ovunque, voti, pagelle, Hawkins, Jaber, Melli, Pecerov, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo qui chi ha orchestrato il mercato dell'Armani Jeans, cioè Gianluca Pascucci, general manager. Pascucci, grandissimo. Ciao Gianluca, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, Gianluca. Buongiorno coach. Senti, regina del mercato, sei d'accordo Gianluca? O rifiuti il titolo, tanto per cominciare? Sicuramente abbiamo fatto degli innesti importanti, è inutile nascondersi perché giocatori come Jabir e Hawkins, che il pubblico italiano conosce da anni, sono degli innesti di valore. Pecerov è un altro giocatore importante con un passato seppur breve non da stella nell'NBA, e Melli è un ragazzo di grande futuro, quindi il mercato è sicuramente stato importante. Se poi sono stati la regina o il re, questo lo dirà il pubblico, e purtroppo conta poco adesso. Sì, adesso è il gioco dell'estate, però come tu ben sai. Coach, dove ti piace questa nuova Milano e dove invece vedi dei problemi, vedi dei punti su cui Gianluca Pascucci dovrà lavorare? Ovviamente è troppo presto per dire, perché ovviamente la metà del lavoro è stato fatto, cioè della società, da Lino Prodi, da Giorgio Armani, da Gianluca Pascucci, tutti qua, ovviamente con la partecipazione dello staff tecnico, hanno preso i pezzi, è come il fuoco in cucina adesso, hanno tutti gli ingredienti, adesso il fuoco... Tocca a Buchi, oh Gianluca, tu sei fuori dalla battaglia adesso, ok? Tocca a Buchi, ok? questa è la verità, okay? Però ovviamente hanno preso con occhio veramente le cose che servivano loro, e ho letto che anche Pino Buchi ha dichiarato alla stampa: oh, abbiamo la squadra che abbiamo voluto, abbiamo coperto i ruoli, e la cosa che hanno fatto secondo me molto bene è che è una squadra profonda, cioè secondo me 10 giocatori, uno fa 5 falli, c'è cioè uno che rimpiazza lui, o uno è malato, uno rimpiazza lui, uno ha uno stiramento, uno rimpiazza lui, cioè la cosa vuole fare rotazione, c'è la soluzione, l'allenatore vuole fare un quintetto diverso, c'è questa possibilità. Quindi hanno secondo me la cosa che è più importante di tutto, a parte 10 buoni giocatori come ha detto Gianluca, hanno flessibilità, hanno le possibilità di fare diverse formazioni e di coprire diverse magagne. Come dicevo, mezzo scherzando, che ovviamente adesso lo chef in cucina deve fare un ottimo lavoro di mescolare bene gli ingredienti, e questo è sempre è un lavoro. 800 24 0024 per le vostre telefonate. Era questo il piano, cioè quello di avere una squadra profonda, una squadra con tante alternative, come dice il coach Gianluca? Sì, vorrei fare una piccola premessa, perché è chiaro che come sempre in agosto si pone l'attenzione sui nuovi acquisti, però noi i nostri migliori acquisti sono quelli che i giocatori che l'anno scorso ci hanno portato in finale e che ci hanno dato la continuità anche per la prossima stagione. Sappiamo quanto sia importante avere una stabilità, una continuità nel roster. I vari Maciulis, Mordente, Finlay, Petravicius, Rocca, Mancinelli saranno anche loro il nostro valore aggiunto assieme ai nostri ragazzi nuovi. Sicuramente l'idea era quella di fare una squadra con più atletismo, e credo che con l'aggiunta di Hawkins, Jabir e in parte anche di Pecerov ci siamo riusciti, e avere una versatilità dove ci siano più giocatori che possono ricoprire ruoli diversi, come lo stesso Jabir, Hawkins, Melli e Pecerov. Poi ti faccio una domanda sulla questione playmaking, che è quella che mi lascia più perplesso. Col coach invece io volevo, prima di salutarlo, parlare un attimo dei mondiali, perché negli ultimi 2 giorni, nei quarti di finale, ho visto una grande partita, Serbia-Spagna, ho visto un trionfo, quello della Turchia sulla Slovenia, un film scontato, Stati Uniti che battono la Russia, e ho visto un massacro, cioè Lituania che ha asfaltato l'Argentina ieri sera. Sembra il titolo di un film, Carlo, che sì. Dice, quattro funerali e un matrimonio. Non so come dire, cioè, proprio hai fatto una bella descrizione. Ovviamente mi chiedono i pronostici adesso e non sarà facile, ma dico squadra di casa Turchia, nonostante la pressione della gente della Turchia, da Istanbul, cioè giocano in casa che è sempre uno stress, penso che potranno battere la Serbia non facilmente, penso che gli Stati Uniti potranno anche battere la Lituania non facilmente. Secondo me abbiamo due bellissimi semifinali, poi in finale si gioca tutto, anche se dico Stati Uniti per un punto contro la Turchia. Questi sono i miei pronostici, sì. Che tu sai che non indovino mai uno, però ci provo lo stesso perché mi diverto. Ma io la differenza tra gli Stati Uniti e le altre, no? Mi è sembrata di vederla in maniera chiara, esemplificativa quasi, in un momento della partita di ieri con la Russia. La Russia è partita molto bene, sta giocando una grande pallacanestro di grande attenzione. A un certo punto nel primo tempo fanno un'azione meravigliosa, spazi e tempi giusti, arriva la palla al tiratore da tre punti, tiro canestro, Stati Uniti manda all'altra parte, Durant fa quattro palleggi, poi guarda il canestro, arresto, tiro canestro da tre punti, il senso è lo stesso, però troppo talento per battere esattamente. Durant ha fatto tipo 33 punti ieri, record sì per un singolo giocatore in una partita, e Carmelo Anthony con 35 e quasi ha raggiunto questo record, perché generalmente la squadra americana nessuno fa 40 o 50 punti, cioè come Oscar ha fatto 47 per Brasile, come niente, hai capito? Cioè, quindi c'è molto più cambi, molto più distribuzione di tiri, di gioco, di punti, eccetera. Però Durant, se togliamo Durant da quella partita lì, non so come andrà a finire, finito 10 punti, o se Kirilenko gioca per la Russia, però ovviamente se dico Kirilenko per la Russia possiamo dire LeBron James, Kobe Bryant e con sì, Dwayne Wade per gli Stati Uniti, però sono domande legittime da fare. Comunque e ovviamente le altre partite, come hai detto tu, cioè un infarto a vedere Serbia che lancia una bomba da 9 metri da Teodosic, cioè alla fine per eliminare la Spagna che ha fatto una rimonta furiosa nonostante il brutto primo tempo di Rudy, nonostante la partita negativissima della partita da parte di Rubio, e io sono super tifoso, ammiratore diciamo, sì, di sì. Rubio, devo ammettere che il mio gioiellino non ha giocato bene per niente, però a queste quattro squadre tu pensi con 7-0 Stati Uniti, 7-0 in questo evento della Lituania, due squadre imbattute in questo mondiale si incontrano, poi Turchia 7-0 contro Serbia che è 6-1 che ha perso solamente con la Germania, qualcuno mi deve spiegare come è successo questo, e Serbia in grande crescita ovviamente, pericolosissime. Tanjević ha detto che teme la partita. Non ho dubbi che tema la partita, anche perché la Serbia l'anno scorso è andata agli europei con una squadra junior, si è arrivata seconda e quest'anno è cresciuta ancora, è una squadra per cui io personalmente faccio il tifo in questo mondiale. Grazie coach, ci sentiamo grazie venerdì. Grazie Mr. Sportivi, Gianluca, un abbraccio. Okay? Grazie coach. Ciao, alla ciao. Prossima, grazie Dan Peterson. Adesso c'è il traffico, già un sacco di domande via sms 349-238-6666, domande che vanno dagli Hornets alla Fastweb Casale, immaginatevi un po'. Anche le vostre telefonate naturalmente dopo il traffico, 800-24-0024, abbiamo anche diversi ospiti, a tra poco. Sempre con noi Gianluca Pascucci, GM dell'Armani Milano, qui vicino a me. Al telefono invece, ospite d'onore, perché CT della Nazionale, allenatore campione d'Italia. Ciao Simone Pianigiani. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, ben trovato. Senti, la settimana si è aperta. Domenica scorsa eri in onda quando è arrivata la notizia, l'ho data subito. Una grande notizia, niente additional round, forche caudine. In modo un po' bizzarro, cioè con l'allargamento dei partecipanti a 24, l'Italia è già agli europei di Lituania. 3-18 settembre dell'anno prossimo non prendete impegni, soprattutto non ne prenderà Simone Pianigiani, cui è cambiata anche abbastanza la vita azzurra, io credo. Sì, no, noi è chiaro che avremmo voluto esserci comunque, quindi quell'impegno lì era comunque circolettato di rosso nel calendario, però è chiaro che la programmazione è diversa e soprattutto non era scontato arrivarci, anche se è finito con fiducia e avevamo l'assoluta convinzione di potercela fare. Così è sicuramente tutta una cosa, perché possiamo programmare l'estate in maniera diversa e siamo sicuri di fare quelle partite di una grande competizione che, come abbiamo detto più volte, rappresentano un motivo fondamentale, una tappa fondamentale di crescita di un gruppo che può stare in nazionale a lungo e che ha bisogno di vivere quei momenti, quell'atmosfera delle grandi competizioni, sì. Per cui uno stimolo per tutti straordinario. Sì, lasciami dire, Simone, che la fortuna aiuta gli audaci anche sotto forma di decisioni politiche. È un risultato questo arrivato per una via appunto strana che l'Italia della seconda fase ha comunque meritato? Sì, secondo me sì, per, non solo per il fatto che abbiamo battuto poi Israele, Montenegro, abbiamo finito imbattuti questo girone di ritorno e quindi come qualità e livello di gioco abbiamo dimostrato di essere alla pari, ma anche, ripeto, per quella che poi era già una decisione presa fin dal 2013, un allargamento che oggi era da parte di tutti ritenuto indispensabile, perlomeno in futuro, è stato semplicemente anticipato, e indispensabile perché l'equilibrio diffuso che c'è oggi in Europa, il numero delle squadre, fa sì che sia giusto che ci sia una competizione di un numero così elevato di nazioni, sì. Che, ripeto, che hanno veramente possono vincere e perdere ogni singola partita per una questione di dettagli. E da questo punto di vista noi siamo stati fuori per differenza canestri, nel girone più difficile, con un sicuramente una qualità di gioco crescente per un gruppo che stava insieme da 15 giorni, ripeto, credo che non ci sia nulla da obiettare per questo. Peraltro è stata anche così, ha anche pagato la forza mentale dei ragazzi di arrivare fino in fondo a vincere, perché poi comunque nel nostro girone c'è chi se lo deve ancora giocare, sì, no? Sì, sì, sì, come la Finlandia, per cui noi era una partita e sono state partite anche per noi con loro punto a punto, proprio l'equilibrio che c'era, mentre invece dopo lo 0-2 poteva starci il rischio di mollare, quindi insomma sono contento, è ovvio. Sì, prima, in attesa di scontrarvi sul campo, uno da una parte e l'altro dall'altra, Gianluca Pascucci, allenatore della nazionale cosa vuoi chiedere? Poi passiamo a Simone Pianigiani, allenatore a Montepaschi Siena. Una medaglia, ovviamente. Una medaglia. Da italiano una medaglia ai prossimi europei. Poca roba, insomma. Simone? No, ma è giusto, cioè, voglio dire, avere sogni e coltivarli deve essere la molla quando fai sport. Io sono il primo a dire che per quanto era ed è difficile ogni volta anche qualificarsi semplicemente in un girone, in un additional round, è altrettanto vero che è difficile ma è legittimo dover aspirare anche a un posto alle Olimpiadi, per esempio, perché quando tu alleni la nazionale, quando giochi per la nazionale, vuoi e devi creare questi obiettivi, è il senso, lo dico sempre, insomma, di fare sport, di avere il gusto della sfida, cui è giusto e legittimo poi che ci sia questo tipo di pressione, anche di pressione, che è una pressione positiva, che è uno stimolo, che è un voler vivere emozioni e che la gente che ti spinge vuole darti, quindi insomma va bene così. Poi insomma Gianluca ce n'è abbastanza già quest'anno in campionato di pressione, per cui è giusto che la distribuisca un po'. Aspetta che ci arrivo, però prima fammi chiedere un'altra cosa al coso della nazionale. Da Gallinari arrivano continui messaggi d'amore. Ho letto in una tua intervista che comunque se verrà inserirlo non sarà un problema, né nello spogliatoio né dal punto di vista tattico, pur essendo un giocatore ovviamente non comune. Confermi? Ma sì, ma è un ragionamento credo anche abbastanza logico, nel senso che la disponibilità è sempre la cosa più importante che può dare un giocatore all'interno di una squadra, e il percorso che abbiamo fatto quest'anno con chi c'era ha mostrato unità di intenti, voglia di aiutarsi, quindi un gruppo dal punto di vista proprio mentale, caratteriale, che ha voglia di stare insieme, quindi questi ci sono i presupposti sempre per un positivo inserimento da parte di chiunque voglia entrare dentro e lo faccia appunto con lo stesso grado di entusiasmo e di disponibilità, per cui non c'è nessun tipo di problema da questo punto di vista. Dal punto di vista invece tecnico e tattico, i giocatori quando sono forti è sempre meglio averceli, poi il modo di farli giocare spetta all'allenatore, ma è la cosa più facile. Quando ci sono i giocatori forti, da quel punto di vista lì non è un problema. Ah, sicuro. Allora arriviamo all'altro capitolo. Gianluca Pascucci, chi è la favorita per lo scudetto? Io ho già letto i primi fuochi, da Minucci da una parte a Mancinelli dall'altra. Per te chi è la favorita per lo scudetto? Milano o Siena? È chiaro che si fa un po' di gioco delle parti. Sì, io facciamolo. Credo che innanzitutto sia probabilmente il campionato più bello che degli ultimi 4-5 anni, perché sì, comunque Siena ha cambiato tanto, ma ha pescato degli ottimi giocatori. Milano ha fatto una campagna acquisti comunque importante. Non sottovaluterei Roma, che sta viaggiando sotto traccia, ma ha fatto degli innesti utili, continuità con il coach Bonicciolli, e Treviso con Repesa, che quando ha iniziato le stagioni con la propria squadra ha sempre avuto dei risultati eccellenti. Detto questo, è chiaro che, come dicevamo, un po' il gioco delle parti, è difficile pensare che una squadra che ha si è perso dei giocatori importanti, ma che ha vinto gli ultimi 4 scudetti e che ha mantenuto un valore aggiunto come l'allenatore, Minucci, e giocatori importanti come Stonruk, Lavrinovic, non sia una delle due o tre candidate. Milano, noi non ci sottraiamo al pronostico, ma semplicemente perché siamo Milano, e quindi sì, Milano, l'Olimpia è obbligata a pensare di poter e dover vincere. Sentiamo cosa dice il coach. No, sono assolutamente d'accordo con Gianluca, nel senso che non dobbiamo, io l'ho sempre detto anche nelle annate precedenti, non ho mai identificato un avversario come quello da battere per voler necessariamente vincere. Credo che si debba stare attenti a diverse squadre. C'è un equilibrio diffuso al vertice, le squadre che ha citato Gianluca, quindi Roma, Treviso, Bologna e anche qualche squadra che è attrezzata, e come poi succede da un po' di stagioni, magari all'inizio non nessuno pensa che possa vincere, ma poi è lì a giocarsela fino in fondo, ad essere una sorpresa. Quindi sicuramente c'è un equilibrio diffuso, sono molte squadre che giocano per arrivare in fondo. È vero che Milano è la squadra che dal punto di vista dell'esperienza diretta, cioè della squadra di come conoscenza del nostro campionato, come incastri tra la squadra che ha fatto le ultime due finali comunque e le aggiunte di questa stagione, ha tutto per essere tra virgolette dichiarata favorita, proprio perché noi abbiamo cambiato quattro quinti del quintetto, abbiamo molti giocatori che devono adattarsi al nostro campionato, come Rakovic, come McCaleb, come Easton, però e giovani comunque come Radori in questo livello, però è altrettanto vero che insomma anche noi non ci sottraiamo al fatto che vogliamo essere lì, perché siamo Siena, perché c'è una continuità societaria di organizzazione ai massimi livelli e quindi se lavoriamo come vogliamo e come siamo abituati a fare, è chiaro che ci saremo anche noi fino in fondo. Fino in fondo. Non so come fare a augurarti buon lavoro, visto tutto quello che hai, Simone. Da una parte azzurro, dall'altra bianco-verde, insomma, non so più come pescarti. No, ma serve. Siamo già a Bormio in ritiro con Siena. Vacanze un'altra volta, No, ma finché facciamo questo siamo privilegiati, va bene così, insomma, facciamo un po' la canestro, quindi sono belli stimoli, sia con Siena sia con la Nazionale, con cui continuiamo a pensare come organizzare al meglio anche adesso i programmi futuri, per cui insomma finché le energie ci sono si va avanti. È un bel vivere, si dai. Va avanti. Grazie Simone, bocca al lupo, un abbraccio. Grazie. Ciao Simone. Grazie a Simone Pianigiani. Ci fermiamo per la borsa, subito dopo torniamo e sentiremo anche la vostra voce. 800 24 00 24, numero verde. Ecco che torniamo, sempre qui vicino a me Gianluca Pascucci, GM dell'Olimpia Milano, con il quale parliamo di Milano, ma non solo di Milano naturalmente, nonostante qualche ascoltatore malizioso che manda messaggi 349-238-6666. Marino da Reggio Emilia e Fabrizio da Livorno invece i primi due al telefono di oggi. Marino, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, la mia testimonianza è che fortunatamente mercoledì pomeriggio ero a casa e ho visto quella bellissima partita tra Spagna e Serbia. Sì. Io ho tifato per la Serbia, mi è dispiaciuto per Scariolo. Sì, anche a me. Una bellissima partita e mi ha ricordato quella finale adesso io ho poca memoria, ma del Partizan Belgrado, giusto? Quando ha vinto con quel tiro da tre, di un signore che conosco più o meno. Di un signore che ho sentito qua nella sua trasmissione, io ho rivisto lo stesso finale di partita, insomma. Più o meno. Non so quanti anni siano passati, ma... Adesso faccio i conti a memoria e glielo dico. Finale di Istanbul con la Juventud di Badalona, eravamo 93 forse, però poi controllo per non fare fenomeno. Comunque, situazione simile. In quel caso mancavano 4 secondi alla fine, rimessa dal fondo, palla a Giorgevi, si fa tutto il campo e fa un tiro incredibile con i piedi che vanno da una parte e la mano che va dall'altra. Insomma, un tiro... assurdo, canestro, Coppa dei Campioni per il Partizan di Belgrado, lacrime per la Juventud di Badalona dei fratelli Gioffrese. In questo caso diverso, perché Teodosic si è bruciato, Gianluca, una ventina di secondi, cosa faccio, cosa non faccio, non è ancora cominciato un gioco quando ne mancavano tre alla fine. E poi ha lanciato questo missile da 7,5 metri, che per chi conosce Teodosic comunque non è un tiro assolutamente assurdo come magari si potrebbe pensare. È chiaro che in una situazione del genere, soprattutto marcato da un lungo, quindi con un mismatch, la teoria direbbe di attaccare il canestro e cercare un fallo, visto che il punteggio poi era anche in parità e quindi bastava anche un tiro libero. Con grande senso del dramma, così ha sparato da 9 metri. Lo prenderesti un giocatore così? Ti piace? Sicuramente è un giocatore di grandissima personalità e talento puro. Quindi giocatori di personalità è sempre bello, credo, allenarli ed avere nelle proprie squadre, perché sono capaci di avere la zampata vincente, come è stato l'altro giorno per la partita contro la Spagna. Ho presa larga per arrivare al playmaking di Milano, hai visto? No, uno degli appunti che si fanno a questa squadra è il fatto di avere comunque Finlay, che non è un playmaker purissimo, un grande attaccante, pure giocatore di personalità. Ibi Jaber stessa cosa, è più guardia naturalmente che playmaker, giocatore che secondo me è grande talento offensivo, non è un leader per caratteristiche, e forse questo è l'errore che è stato fatto anche l'anno scorso a Roma, cioè quello di battezzarlo come leader quando lui il leader non lo è, ma ripeto, per caratteristiche. Vi sentite coperti dal punto di vista del playmaking? È chiaro che quando si costruisce una squadra si cerca la perfezione e di trovare esattamente tutti gli ingranaggi perfetti. Non sempre è facile, anche a causa di quelle che sono le regole italiani, passaportati americani. Credo che Finlay, nella costruzione della squadra di quest'anno, possa essere sgravato un pochettino dall'onere di dover essere un realizzatore principe, come chiaramente lo è stato sempre nella sua carriera principalmente, e con un anno di adattamento a Milano, la squadra e compagni, possa, ecco, non essere chiaramente un playmaker di finissimo cervello, chiamiamolo così, ma sicuramente un aiuto importante, potendo avere dalla panchina invece un giocatore come Jaber, che con la sua prorompenza fisica atletica può spaccare le partite in ritmi, due. Esattamente. Può cambiare i ritmi. Granducato di Toscana, Fabrizio da Livorno, buongiorno. Buongiorno, da ex Libertassino posso dire, speriamo che Milano perda la finale scudetto all'ultimo secondo con un canestro annullato. Claro che sì. Io ero presente a quella partita. Questa ci sta, credo che anche i tifosi milanesi la possano passare. È una battutaccia. Cioè, volevo fare una domanda per quanto riguarda Di Bella, che a Pianigiani ora non è più in linea. Sì. Se era stata una scelta tecnica quello che non fosse presente o se era per motivi fisici? Non credo fosse per motivi fisici, penso sia stata una scelta che Pianigiani ha fatto, nonostante Fabio Di Bella abbia fatto l'anno scorso il miglior campionato della sua carriera, no Gianluca? Sì, è stato veramente probabilmente il miglior playmaker italiano del passato campionato, anche noi ne sappiamo qualcosa nelle 5 sfide di semifinale con Caserta, ci ha fatto penare le pene dell'inferno e... Sicuramente un giocatore che ha trovato una seconda giovinezza, anche se non è poi vecchissimo in quel di Caserta. Sì, sempre in materia di playmaker azzurri in questo caso, prima c'era anche un messaggio indirizzato a Pianeggiani, non ho fatto in tempo a girarglielo, da Luca credo, un ascoltatore. Secondo te siamo coperti in nazionale con Maestranzi, con i giocatori che abbiamo avuto, con Giachetti, Vitali? Pianeggiani ha detto non era pronto, non eravamo pronti noi per avere un playmaker atipico di questo tipo, poi magari potrà esserci di nuovo Poeta, però è evidente che è inutile nascondersi, al capitolo playmaker e lunghi in Italia non siamo messi bene. Sì, tant'è vero che sono i due spot dove Pianeggiani aveva identificato di inserire il cosiddetto passaportato, ossia Maestranzi oppure il nostro Mason Rocca, per queste qualificazioni e chissà anche magari l'anno prossimo per gli europei. Per quello che riguarda il playmakeraggio, diciamo che Maestranzi è sicuramente un giocatore in crescita, sarà interessante vedere come farà la seconda stagione a Montegranaro, perché tutti si aspettano un miglioramento, un passo avanti. È chiaro che ha dei limiti fisici che magari ad altissimo livello lo possono penalizzare. Giachetti credo che in questo momento sia il più maturo, il più pronto per il suo background cestistico, per aver giocato sempre ad altissimi livelli, mentre Luca, per la sua tipicità, non è facile sempre da inserire in un contesto di squadra, sì, soprattutto con un periodo di preparazione limitato. Naturale, quindi non ha tutti i torti Pianeggiani quando parla di squadra non pronta ad avere un playmaker così atipico, certo. Questo è comprensibile anche. Cremona, Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Dica. Niente, ieri sera ho visto un'amichevole tra Vanoli e Monte dei Paschi. Sì. E credo che quest'anno per Pianeggiani sia la prova del 9, in quanto deve amalgamare una squadra tutta nuova. Dell'anno scorso sono rimasti solo in 3 o 4, di cui Rales e Carretto non erano delle prime scelte. Sì. Quindi vediamo se quest'anno sarà veramente il migliore allenatore italiano con questa squadra, anche perché nella nazionale io non ho visto un grandissimo gioco. Delle volte c'era un Bargnani contro tutti, però qualche volta Bargnani e Bellinelli contro tutti. Sì, però almeno Bargnani e Bellinelli negli anni passati avevano fatto fatica ad utilizzarne anche il potenziale, però al di là di questo, insomma, io sono invece soddisfatto personalmente del lavoro che ha fatto Pianeggiani in nazionale. Secondo me ha costruito una squadra con grande fatica e anche con poco tempo, perché la pressione della vittoria era fortissima, come ho detto molte volte, era una squadra che giocava zavorrata dalla scimmia che si portava sulla spalla, poi la scimmia è andata via con la Finlandia e da lì le cose sono migliorate fino ad avere una squadra credibile, quella che ha chiuso il girone. Quanto al resto, sì, ha cambiato tantissimo Siena, che Aukenas non posso considerarlo uno nuovo perché è stato via un anno, è tornato indietro ed è uno di quella squadra. Secondo me Siena ha preso il miglior sostituto possibile, ovviamente nel rapporto qualità-prezzo e tutto quanto, per Terrell McIntyre, che è McCaleb, giocatore che a me piace moltissimo e che l'anno scorso ha portato, dove sapete, il Partizan di Belgrado. Chiederò tra poco un parere anche a Gianluca Pascucci, ma intanto saluto Jerry De Rosa che è a Istanbul. Ciao Jerry. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ciao Jerry. Come si sta da quelle parti? Scusa, non ti ho sentito. Come si sta laggiù in Turchia? Ma si sta bene. Sì, Si sta bene. Purtroppo senza l'Italia. Vediamo delle partite bellissime in un clima splendido, in un grande palazzo dello sport. Purtroppo manca l'Italia. Sì, oddio, partite bellissime. Sinceramente i quarti di finale hanno un po' deluso dal punto di vista dell'equilibrio. A parte la prima, Spagna-Serbia è stata strepitosa. Sì. Le altre... una è un trionfo, quello del popolo turco, no? Come dicevo prima, sì, con Dan Peterson, l'altro un film scontato, Stati Uniti-Russia, e poi un massacro. Massacro di Fort Apache, quello della Lituania sull'Argentina. Sì, hai trovato una spiegazione? Principale. Hai trovato una spiegazione di questo massacro? Sì, cioè che la Lituania è una squadra a cui mancano 4 stelle, però secondo me ne ha già messe in mostra altre meno note. Ha giocato una partita fantastica, secondo me, con un'applicazione difensiva che ho visto raramente. Raramente ho visto Prigioni e Scola non riuscire a fare nemmeno un pick and roll come è successo ieri. Ha difeso in maniera fantastica, credo, e poi dall'altra parte segnavano sempre. Credo che non potranno tirare così come ieri. Non sbaglio, alla fine del tempo era 8 su 11 da 3 o qualcosa del genere, 0 su 10 d'Argentina. Però anche se manca Siskauskas, i due Lavrinovic, Kaukenas, questa è una squadra che gioca molto bene, ha secondo me almeno un paio di giocatori che saranno delle stelle nei prossimi anni. Uno su tutti si chiama Focius, gioca nello Jaguars, ha già fatto la Rolega quest'anno, e secondo me è un giocatore strepitoso, a metà tra Kaukas e Šiškauskas. Ieri ha veramente dato lezione all'interno però di un sistema che ha funzionato benissimo. Dall'altra parte l'Argentina erano in tre, Delfino, Scola e Prigioni hanno giocato 35, ha preso tutto il torneo, sì. E ieri ha pagato un po' sicuramente. Ha pagato sicuramente. Jerry, ti chiedo un attimo di pazienza, a te Gianluca Pascucci, traffico, poi torniamo subito qui. Torniamo con l'ultima parte di Palla Spicchi, è il momento dei pronostici, caro Jerry De Rosa, caro Gianluca Pascucci, li facciamo anche sulla pagina di Facebook e finora c'è solo un ascoltatore che ci ha seguito in questi pronostici che ovviamente a parte non sono stati corretti, ci mancherebbe altro se li sbagliamo. Marco Cosenza ha pronosticato le semifinali dei mondiali come il team di Palla Spicchi, Serbia, Turchia, Lituania, Stati Uniti. Per noi la finale sarà Serbia, Stati Uniti, per Jerry De Rosa... Per me Turchia, Stati Uniti e la sparo, vince la Turchia. No, l'hai sparata grossa. Ma molto grossa. Mi prendo questa responsabilità, però sai, dire Stati Uniti è facile. Sì. Poi... ma c'è un motivo, c'è un motivo? Guarda, al di là della... mi hanno impressionato tantissimo, devo dire. Cioè sono degli grandi atleti, degli ottimi giocatori, ma ancora una volta non mi sembrano una squadra. E se anche domani affrontano, cioè trovano la Lituania che ha giocato con l'Argentina, faranno sicuramente molta fatica. E una finale poi con la Turchia, secondo me, i lunghi, i 3-2-15 a Turchia, più gli Asma, più Turkoglu, più i 15.000 del Palasport, sarà un avversario molto duro per questi americani. Quindi insomma, secondo me ci può anche stare, ci può anche stare. E ti dirò che farò anche un po' il tifo. Io metto la bandiera turca, la bandiera della mezzaluna fuori dalla finestra di casa, per Boša Tanjević questo è altro. Sarebbe meraviglioso se Boša, prima di salutare la Turchia, quella panchina, di traslocare a Roma a fare un altro mestiere, sì. vincesse questo. Devo dire che l'altra sera ha fatto c'è stato un momento in cui è vero che era avanti di 20, è stato fatto uno dei suoi quintetti con tre centri in campo, sì. Con Lunca giocava dalla P. Che ti fa con i forse. Sì. Però scusami, visto che c'è Gianluca Pascucci, volevo solo dirgli che ho visto un Panciulis in forma fantastica, anche se ha avuto problemi di falli, però ha avuto un impatto sulla partita devastante. Credo che sia molto felice. Grazie Jerry, grazie, buon lavoro laggiù in Turchia. Grazie a voi. Sentito Gianluca. Sì. Grazie Jerry, ciao. Sì. Ma ci sta bene. Maciulis ha fatto un campionato mondiale di ottimo livello, soprattutto con una buona continuità di rendimento a parte la partita degli ottavi di finale. Siamo molto contenti perché l'anno scorso ai campionati europei faceva fatica anche a mettere piede in campo in una squadra lituana che era più o meno quella di quest'anno. Quindi significa che il finale di stagione con noi della passata stagione, insomma, non è stato solamente un fuoco di paglia, ma è un segnale di miglioramento. Un giocatore che a me piace moltissimo, soprattutto un giocatore da livello europeo fisicamente, un giocatore da Eurolega. A proposito di Eurolega, fare cosa quest'anno Milano? Sicuramente cercheremo, seppur in un girone difficile, ma proprio per questo anche molto stimolante, di ripercorrere il percorso dell'Olimpia, della prima Olimpia targata Armani, proprietà Armani, quando passammo alle Top 16, portando a casa anche degli scalpi eccellenti come CSKA, Olympiacos, Real Madrid. Il girone ovviamente duro, ma stimolante, affascinante, spero anche per il pubblico di Milano. E sì, ce l'auguriamo, anche perché l'anno scorso è stato molto triste vedere grandi avversarie al cospetto dell'Olimpia in un deserto, quello era quello di Assago. Io mi auguro davvero che voi possiate essere così bravi da coinvolgere il pubblico milanese, perché il pubblico milanese, come sai benissimo... è esigente, vuole tanto e si fida poco, bisogna convincerlo, dovete essere bravi voi lì secondo me. Sei anche tu convinto come Jerry De Rosa che la Turchia vincerà i mondiali? Così per inciso. Esce fuori il mio lato romantico della pallacanestro e se devo dire una squadra dico anch'io Turchia, perché mi pare di ricordare la Grecia quando vinse il suo primo titolo, sì, europeo, e vede una squadra che è in missione per un popolo intero, quindi romanticamente dico Turchia sugli Stati Uniti in finale. Poi romanticamente per il vecchio Bosch, che pure ha avuto i suoi mille travagli. Pensa cosa sarebbe vincere il mondiale con la Turchia in casa, sarebbe pazzesco, dopo un europeo, quello dell'anno scorso, in cui fece male la Turchia, molto male. Lucio da Trieste. Sì, buonasera a voi. Buonasera. Una leggera polemica con chi lì prima ipotizzava una nazionale italiana da podio nei prossimi europei. Visto 3 su 4 semifinaliste europee, penso che bisognerà aspettare un attimo per vedere questo. E però bisogna sognare, perché i sogni non costano nulla. Ma questo, insomma, bisogna. È chiaro che ti guardi in giro, ovunque ti guardi, vedi la Turchia, vedi la Serbia, squadre invidiabili, secondo me, da molti punti di vista. Vedi la Grecia, vedi la Spagna, dici: ma dove andiamo noi? Però, insomma, io sono con chi dice che andiamo agli europei, bisogna andare per provare a fare bene, a fare il meglio possibile, perché se non sogni che cosa vai a fare, o no Gianluca? A me piace ricordare il terzo posto agli europei in Svezia, dove ovviamente non eravamo i favoriti, neanche per ovviamente il podio, c'erano delle corazzate incredibili, e in quella manifestazione poi nacque la squadra che ci portò a giocare la finale olimpica, quindi... Sì. La base è di giocatori buona, giovani, un tecnico perfezionista, perché no, basta lavorare e migliorare. Certo, ti piacciono i motori? Sei conterraneo di Valentino Rossi, ti piacciono i motori? Non sono un grande appassionato, però ovviamente aspetta Valentino. Aspetta che ti porto a Monza. Sport e motori. Dove c'è il nostro inviato Dario Ricci? Prima di chiudere il programma volevo sapere come sono andati i primi exit poll. Beh, intanto buongiorno da Monza. Sentite, le vetture in pista lo saranno fino alle 15.30 per la seconda sessione di prove libere. Beh, direi finora Carlo McLaren protagonista, sia nelle prove del mattino col miglior tempo di Jenson Button 1:23.697 a 274 millesimi, il compagno di scuderia Hamilton nel mezzo, Vettel a soli 97 centesimi, e anche attualmente nel pomeriggio a ruoli invertiti, però, perché il miglior tempo finora è proprio del leader della classifica mondiale, Lewis Hamilton 1:23.154 davanti a Button, staccato di 56 centesimi. Le Ferrari sono lì per quanto riguarda la classifica, nel senso che al terzo posto al momento c'è Felipe Massa 737 millesimi, al quarto Fernando Alonso 771 millesimi di distacco. È proprio nel distacco il problema, Carlo, nel senso che questo consolidato di 7-8 decimi finora non cala rispetto a quelli che sono stati i tempi della mattina. Chiaramente il venerdì, lo sappiamo bene, è giornata quanto mai tattica, ma è anche vero che nell'aria c'è l'atmosfera dell'ultimo appello per la Ferrari, perché sappiamo quanto valga Monza nell'economia di questo mondiale. Sicuro, ce lo racconterai domani e dopodomani lì da Monza, Dario Ricci. Grazie intanto, dunque alla mattina è andata così, pomeriggio vedremo. Io vi giro un'ultima notizia battuta in questo istante, guardate un po' di basket. Bologna, ecco la nuova Fortitudo, riparte dalla B dilettanti, rinasce la Fortitudo fondendosi con Budrio, a me sembra. Naturalmente c'è ancora questa partnership con Sacrati, a me sembra un po' un pasticcio. Io non so se interpretarla, la Fortitudo o quel che resta, una specie di Fortitudo in B2, come qualcosa di positivo. Certo, Fortitudo a me manca molto. A te? Ovviamente anche a noi, a tutti i tifosi, a tutti gli appassionati di pallacanestro, perché anche quando capitò la stessa cosa la Virtus, sì, la Scavolini, insomma sono quelle squadre storiche, e soprattutto la Fortitudo con il seguito di pubblico che hanno, gli appassionati. La trasferta di Bologna ci mancherà anche quest'anno, purtroppo. Ci mancherà tantissimo. Grazie Gianluca, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro a te, all'Armani. E noi ci sentiamo. Io ringrazio anche Flavio Suardi, naturalmente, che ci ha portato Gianluca Pascucci. Ringrazio invece Franco Piantanini in redazione, Filippo Auregi in regia. Ci sentiamo con lo sport, naturalmente, domani pomeriggio dalle 5 alle 6, domenica dalle 5 alle 7. Vi aspetto.